tu guardi le stelle, stella mia, e io vorrei essere il cielo per guardare te con mille occhi. Mi chiami, scendo e datemi un secondo, solo un secondo, che già siete pieni, camerieri nel tuo coffee, voglio il conto. Fuori controllo, fuori da questo posto, Monelli in gara per il podio, secondo e terzo, lontani non li riconosco, non c'è premio se non ci metto il cuore. Prima dentro un pallone, ora l'aereo lo fa volare in un registratore. Forse un milione di gente mi ha ascoltato, qualcuno invece non sa neanche che sono nato, e già mi hanno segnato. E da tutte ste persone, cattivo o buone, qualcosa a vita ti ho imparato, pure uno stronzo a cuore. Trasmettere con la passione, emozioni in ogni situazione, e dare più di un valore perduti a questa fottuta nazione. Nebbia a fior di pelle, brividi alle stelle, che quando guardo quella stella non mi venga a dir più niente. È come un brivido che mi entra nelle ossa, dai piedi alla testa, fidati, un'immensa scossa, pare elettricità, quindi cerco di diffonderla in questa città. La base, traghetta note di notte, con energia suggestiva faccio le scorte. Sono un bullone a corte, buffone, fatti da parte, decido io la sorte, prendo in giro i re con l'arte. La pena è già finita, finisco la strofa col brivido che parte dalle dita. Avevo perso tutta, l'ho presa come sfida, verità nuda e cruda, questa salita non fa più paura. E sì che brividi, la pelle d'oca, amo cantare, scrivere, la voglia di litigare è sempre poca. E sì che brividi, la pelle d'oca, amo cantare, scrivere, baby, con l'anima anzi gioca. E sì che brividi, la pelle d'oca, amo cantare, scrivere, la voglia di litigare è sempre poca. E sì che brividi, la pelle d'oca, amo cantare, scrivere, baby, con l'anima anzi gioca. Talento a pacchi, senza scendere a patti, lo faccio negli scantinati, eppure sembra che ho le ali, sto sugli attici, costretta al silenzio, se non qualcosa peggio. Meglio tacere che insultare, poi puoi provarci piacere. Sta roba è tutto un brivido, come veleno liquido. Non spaventarti, amico, se domani duole, viole, trovi un livido. Brivido su brivido, aggiungo menta ad un mojito, per far di questo brivido un brivido bandito. E se li vuoi me, brr, brr, lo so che puoi, tanto so che rimarrò con te, pure se non mi vuoi. E se li vuoi me, brr, brr, lo sai che puoi, tanto so che rimarrò con te, pure se non mi vuoi. E sì che brividi, la pelle d'oca, amo cantare, scrivere, la voglia di litigare è sempre poca. E sì che brividi, la pelle d'oca, amo cantare, scrivere, baby, con l'anima si gioca.